rispose, oh, mi manda cosa, cario vi farò, oh, cario vi farò, oh, cario vi farò. Vendicarsi? Come? Come potria farsi? La volpe vuol sorprendermi e secondar la volpe. Oh,